dici, vai a mangiare del fungo, non c'hanno neanche l'odore, non solo del sapore. Ma mai tutto quanto fuori del rumore? Sto dicendo, gli danno poi le essenze, per dire, come nei gelati. Non è, tu dici, gusto, puoi darmi un gelato alla fragola, la fragola dov'è? C'è passata vicino, gli mettono l'essenza e ti dà il gusto di fragola. Però la fragola non esiste, non c'è mai passata lì. Gli danno questi prodotti che gli danno soltanto il gusto. Però non c'è niente di fragola. Prima invece mangiavi il gelato, ti trovavi il pezzo della fragola, quando prendevi la fragola. L'unica cosa quando c'è il cioccolato, che lì vai ti mettono qualche pezzo avanzato dell'uovo di Pasqua, della Pasqua precedente. Se no, nulla. Tutto il resto sono... Il 90% utilizzano prodotti con essenze, preparati e batteria. Non ne fanno più di, anche lo stesso latte. Chi è che ne compra più? Tutto latte in polvere, eccetera, eccetera. Preparati. Te lo dico perché ho amici che sono nel campo, ma lo dicono anche loro. Purtroppo è il grande consumismo, per tenere i prezzi bassi e i guadagni alti devi fare così. Infatti io non mangio più latte da anni. No, mi va bene così a me, no? Sono una persona tranquilla, capito? Quando mangio un pezzo di formaggio voglio che sia di una persona che conosco, un pezzo di salsiccia voglio di una persona che conosco sicuramente e basta. Poi mangio verdure di orto e sono molto... ma non per altro, anche perché non è la fissa che uno deve morire, tanto moriamo tutti. Però un conto è mangiare male, vivere male, anche se uno vive a lungo. Un conto è mangiare bene, vivere bene a lungo. Hai visto a Montalcini? Chi sarà da mangiare? 103 anni è arrivata quella lì. 103 anni. A vedere. Cosa mangiare. Quella, giustamente, aveva anche un fisico tutto controllato. Sono persone che nascono anche. Quel fisico li nasce, non è che... Vabbè, diciamo, poi anche questione di fortuna, di regolazione, cioè regolare, vita regolare, eccetera, eccetera. Sicuramente quelli che vivono all'interno del Nuorese, nella Barbagia, che fanno un'alimentazione sana, che si producono tutto loro, durano molto di più di quelle persone che vivono nella città, zone inquinate, eccetera, eccetera, con prodotti di grande distribuzione. Basta andare nel Nuorese, quanti ce ne sono, centinaia ci sono di lì. Qua salta li conti sulla punta della dita, di lì in proporzione ce ne sono uno ogni 50 abitanti di centenari. No, io via, da 100 anni è un traguardone, caro mio. Poi la Montalcini ci è arrivata bene, da, era un po' così, ultimamente era secca, però ci è arrivata, ci è arrivata. Sì, no, ma io dico, è importante che arrivi sano, inutile arrivare a 100 anni e poi sei tutto dipendente dalle altre persone, c'hai problemi di movimenti, eccetera, eccetera, di comprendere. Puoi arrivare anche a 80 anni, è importante che sei efficiente tu puoi, non dipende da noi arrivare a 100, 80, 95. L'importante è quello, brutto è quando non sei più indipendente, e quello è il problema, puoi arrivare anche a 30 anni e quello è il guaio. Sto dicendo, compresso, vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare? Poi io non sento nessuno, c'è qualcuno? Boh, non sento nessuno, vabbè. No, c'è muto, proprio bassa, bassa, cioè il QRM è bassissimo. No, qui è 4, 5, no, già c'è un po' di fruscio, c'è problema. Oh Giova, io ti devo lasciare per qualche minuto che mi hanno chiamato dentro, ma se ci sei dopo ti chiamo, va bene? Adesso io con i miei del brigare qua, poi vediamo se ti posso rispondere, se no buon appetito. Ehi, ok, dai, ci sentiamo magari dopo, se no buon tutto, ciao ciao. Ciao, buon tutto, ciao ciao. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti. Daniele sta provando il 60 e poi c'era Giovanni Ditti. Perché il nuovo problema c'è il 60, glielo messo a posto, come c'è? No, tutto a posto, andava bene, no, stava confermando quello. No, se ha fatto quello che gli ho detto io, momentaneamente già va bene così, poi primo giorno che passa qua glielo sistemo, la metto la ghiera di plastica e vedrai che già funziona bene. Ok, no, stavo cercando un tonnello. Non l'ho sentito, vabbè, sono stato poco fa, un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ho spento perché sono andato a mangiare e adesso sono rientrato. No, io quanto ti stavo facendo mille relazioni che quindi dobbiamo presentarli entro la prima settimana del mese, quindi domani giovedì le ho finite e adesso le depositiamo, quindi me lo portano dai piedi. Io mi stavo facendo il chiacchiere con Vanino, il walk-off, mi sono andato a mangiare e c'è la chiccia nel canale 10. E niente, no, sto cercando una parola, volevo dire una cosa, che mi ha detto Vannino, ma per cui magari se più tardi entra già lo sento. Quindi Romero, hai preso quello che fa neri? No, no, no, lo stesso neri, non c'è problema. Sì, non c'è problema. Sono anche più belli secondo me, neri, più eleganti. Tanto sono nel tetto, ma così bene. Sono tutti e due con le luci però. I tuoi sono tutti e due con le luci. Sì, tutte e due con le luci, tutte e due con le luci. Ma quanto ci ha preso di quella macchina, Roberto? No, lo sai cos'è, questo commercia auto, prende un po' di tutto, perché prende anche macchine incidentate, ci tiene a parte qualche cosa, diciamo, non so cosa ti occorre in particolare. 50 chilometri, non funziona la velocità, tutto il resto funziona. E sei sicuro che conta chilometri? No. Quelle macchine lì c'hanno quel difetto. Non lo so, così mi hanno detto, non lo so. C'ha dei sensori sotto, non so se tu te li intendi, che però sicuramente non sono quelli, perlomeno il meccanico mi ha detto così. E dice che si rompe una cosa all'interno, perché è digitale, all'interno proprio del contachilometro della velocità. Capito? Allora, tieni presente, i contachilometri si rompono come tutte le cose, però normalmente sono i sensori, i problemi che ti danno i sensori, che il trasmettitore diciamo, che trasmette i giri e in base a quello ti dà la velocità della macchina. Ho sentito qualche problema di contachilometri, ma secondo me è più il sensore, bisogna fare una diagnosi alla macchina. C'è uno che la fa molto bravo, quello Agus che c'è in via sotto bandiera gialla, che fa il carburatore e tutto. Se no di contachilometri, lo posso chiedere a lui che se ce l'ha, non dico te lo regala, ma quasi, perché è un amico, siamo amici amici. E se no ce n'è una la cosa, la Mercedes. Vabbè, non è sola, non sono a te. Vediamo anche questo, certo, non lo voglio regalare, perché ce l'ha uno su internet, lo vuole fare pare 70 euro, con la ricarica, ne ha dato anche il numero della carta, più 20 euro di soluzione, non te lo prego, anche perché lo devo provare io prima, no? E te lo volte uscire e poi mi mandi in porcheria, capito? No, domani tanto passare da te per fare quel lavoro. Mi ha messo già la parte della roba a portati, ci prendiamo il coso, i latti come abbiamo fatto per quella roba lì, lo telefono e roba lo vediamo, capito? Vediamo un pochino, così, fatto quello e appostami. E poi ricordami che devo far volare quella fare della capotta, minchia. Adesso quello è l'unica parte della macchina non è trincata, per cui bisogna starci un po' attenti. Se ci lasci quel prodotto che mettiamo noi non è bello a vedersi, però sei sicuro che non va avanti. Ti faccio una prova sulla macchina di mio padre, che c'è da anni, c'è un buchettino, non si è mai allargato. Il problema è che se tu ti metti alla valla e ne rugavi siamo di nuovo a capo. Non sono ne rugavi, per carità, è secco quasi. È che sto vedendo io rispetto all'altra punta, sto vedendo la guarnizione che si sta sollevando. Non so, di lì allora per intervenire e fare un lavoro radicale bisogna attaccare il parabrezza, bruciare, saldare se eventualmente è bucato, e così siamo sicuri che il lavoro verrà fatto regolare. Se no la soluzione è dall'esterno con questo prodotto, ridandogli, adesso dopo domani me lo fai vedere, vediamo se come si chiama, se c'è dentro, perché quella ruggine è affiorata, probabilmente di lì hanno toccato o hanno sostituito il parabrezza e quando tu rimani hanno attaccato la vernice perché è partito abbastanza che appena appena, se non è protetta, ne ho visto tantissime, sia di punto 147 e tutte le macchine che hanno quel sistema di capota che non è stringata. Sono l'unico problema è quello lì di quella macchina lì, perché è totalmente stringata, solo la capota non è fatta. Bisogna starci un po' attenti. Domani ce la vediamo questa cosa, domani ce la vediamo, così facciamo colpo il telefono a questo qua. Vediamo un po' se ce la facciamo dare, ce la facciamo dare. Ok, no, io non ho ancora mangiato, non ho ancora mangiato, è rientrato poco fa mia figlia, però adesso mi stavo relazionando queste cose. Io con Busaldo, che rientro oggi, mamma mia, ma tu non sei stanco. Guarda, non più di tanto, perché ti dico che se mi sono andato dal letto ieri non ci crederai il cazzo, sono rimasto in bagno fino a mezzogiorno con il gatto. Mamma mia, come fai Roberto? Oh, io guarda, ieri ho visitato proprio a voi. Ma ecco, ma cosa ti ha che fare? Allora, ci vuole tanti. Quindi ieri cos'era? Era una festa, così è. Era uno. Quindi il 31, l'una mattina praticamente, io alle 8 e mezza ero già in piedi, 8 e mezza, già in piedi, perché poi doveva portarmi dovevo andare col microfono a Gianni a Capri, e quindi l'ho telefonato, la 9 e mezza non mi ha risposto, le 10 non mi ha risposto, poi mi ha risposto alle 11, ma è troppo, no, che io me lo sto facendo, ha detto mi ha da te. Ma comunque, cosa facciamo? No, sto scendendo, ci prendiamo un caffè. Scende tutto già raddo, tutto chiuso. Ci abbiamo fatto due chiacchiere, mi sono andato perché c'avevo gente a pranzo. Ma per dirti, cioè, non ce la faccio a stare a letto sino a quell'ora, capito? Assolutamente. No, te permettimi, io mi sveglio presto, cioè sveglio però con il gatto, nel senso, mi sono svegliato, io ho l'orologio dentro il corpo, che mi deve alzare sempre a quell'ora lì, me la puoi rigirare, mi sveglio sempre a quell'ora. Mi sono rimasto nel letto, mi ha acceso la radiolina, stavo ascoltando, e poi dopo una mezz'oretta mi sono chiuso di nuovo gli occhi, e poi alla fine me ne sono andato a casa, tesoro che porto bucata. Ma alla fine non fa, capito? Non fa. Io perlomeno non ci riesco, per carità. Se sono stanco che posso stare a letto un'oretta in più, ma non... Io anche la domenica, che praticamente non riesco presto, faccio un girettino di controllo così a metà mattinata, ma io sempre a quell'ora mi alzo, 7:30, 8, non di più, preparo la colazione, eccetera, e poi devo uscire. Devo uscire, se vado a casa me viene a baranoia. No, lo so, io ti presento, è l'unico giorno dell'anno, di 365 giorni dell'anno, che me la prendo con comodo, che mi trovo, mi corico, cioè me ne alzo tranquillo, se ne vogliamo ne alzo, perché tutti gli altri giorni tu dici la domenica, io la domenica faccio questa cosa, io sono sempre impegnato, d'estate dici ti prendi le vacanze, le ferie te ne mesi prima degli altri giorni, io la notte già dormo poche ore, perché non riesco a dormire più di 7-8 ore massimo, ma 8 ore è già tanto, fare tutta una serata 8 ore per me è in situazioni particolari, se no di media dormo dare 6-7 ore al giorno, non di più. E l'unico giorno dell'anno che mi permetto di alzarmene a quell'ora, quest'anno è capitato, normalmente alle 10 massimo me ne alzo, e quest'anno ho detto, ero troppo stanco dal giorno prima, ero a pizzi. Lo so, un anno un po' balordo, ma no, io siamo stati bene, davvero. Fertiglia sta bene, non c'è grande traffico, grande casino, niente, sono stato bene. Peccato la giornata non era delle migliori, altrimenti magari sono entrato l'indomani proprio più buon pomeriggio. Infatti la sera volevo fare un po' di radio, ma sono crollato perché ero un bel stanco, ero due giorni rabattando, poi c'avevo gente anche a pranzo, quindi insomma, capito? Abbiamo fatto tutta la tirata. Quanto mi c'erano, vabbè, per passare da una palla all'altra, non è che tu hai per caso, a me mi si è, non so cosa è successo, l'ho aperto, non ci vuole niente dentro, l'ho imbruciato, non ce n'è. Il trasformatore 220-110 della linea, che poi mi serve per alimentare anche il Mark 5, il BAC. Capito? Si è spento, non funziona più. Io ho quello attaccato a lui, se no ti avrei dato il mio, c'ho tutto già passato. Comunque non costano molto mica quegli affari lì, l'ho comprato la GBC, e l'ho portata la tensione americana, sta parlando, da 220 a 110, un riduttore di tensione. Via, 220 a 110, ma quindi un altro, solo che questo è bellino, c'è nella sua scatola, con l'attacco, presa diretta a 220, mentre l'altro invece che mi ha dato Capri è singolo, proprio il trasformatore grezzo esterno, fatta a cogliere, vedete come sono le spine americane, con le piatte, che sono due alette piatte, quelle brutte a vedersi. Cioè, da una parte quella lì, infatti direttamente da Rolls cioccolata colì, mentre il Pace era già stata fatta la modifica, perché anche il Pace era a 110, però quando l'abbiamo acquistato non me l'hai fatto prendere, c'era già stata fatta la modifica all'interno a 220. Però dovrebbe essere abbastanza, se chiedo a qualche amico se forse c'ha qualcosa, già ti faccio sapere. Aspetta che stavo controllando qua a 525, che c'è qualcuno che sta facendo la modello. Aspetta, c'è qualcuno, vabbè, mi sta chiamando mia figlia, poi ti dico una cosa. Come ci sei? E io. Scusa che mi ho avuto una figlia che ha passato a mio genero al telefono e c'ha un problema. E quindi domani bisogna andare a cambiare il contattore, si è accorto che non c'è pressione. Ma se lo c'era qualcuno, mentre tu parlavi ti sentivo anche a 5.25, fatto la bravi, iniziate a fare l'anno, momelli. E quindi quello che stavo dicendo, non me la metto più, cosa ti stavo dicendo? Certo, quando stavo parlando mi sentivi a 5.25. Ti stavano trattando di VHF. Chi sono questi simpaticoni? Qualche simpaticone, qualche uno che non l'ha fatto per male, prendiamola così, però fate la brava, che non sono cose da fare queste. Ok, e quindi niente, capito Robert? Non mi ricordo quello che stavo dicendo, porca la paletta. Poco fa stavamo parlando con coso, con come si chiama? Con Giovanni Ritti, li mettevano la portante, non lo passavano perché non parlavano, però lo disturbavano, non so chi era, poi l'ho chiamato di entrare, un segnale abbastanza forte, per cui si capisce più o meno chi sia. Io non devo evitare tutte le discussioni che sono nate col tempo, io non sento a te, mi faccio due chiacchiere, due passaggi così, ma non sono più frequentatore come prima, proprio per evitare polemiche, discussioni eccetera, però invito sempre le persone che stanno ascoltando, che sono in possesso del VHF, che sono al sicuro più voglia di non fare queste cose, che non sta bene. Non sta bene, poi tra l'altro è molto pericoloso, perché se ti pizzicano inizi male l'anno. Va bene. Ma a me mi hanno chiamato, se non ci sentiamo dopo, che sarà molto difficile perché sono stanco morto, ti auguro la buonasera, buon tutto, ci vediamo domani noi, ok? Così ci facciamo queste cose che dobbiamo fare e sistemiamo l'affare della macchina, ok Robert? Ehi, ok, buona carica, molto bene, ci sentiamo domani. Ciao ciao, rimango ancora un po' in ascolto, se c'è qualcuno sono anche io, sacco. Vado a cenare, ciao, grazie per le chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto.